Europa 24. In primo piano il tema dell'immigrazione con le proposte della Commissione europea. 75 milioni di cittadini turchi potranno muoversi liberamente nell'area Schengen a partire da luglio con il semplice passaporto. Dalla Commissione europea arriva il disco verde alla liberalizzazione dei visti, una delle condizioni richieste da Ankara per l'accordo con l'Unione europea sulla gestione dei flussi migratori. Un accordo che, ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Timmermans, sta funzionando. Il via libera arriva nonostante la Turchia non abbia soddisfatto ancora tutti i 72 requisiti prescritti dai regolamenti. Ne mancherebbero ancora alcuni, ma secondo la Commissione, Ankara ha compiuto progressi importanti e ci sarebbero margini per completare il percorso. Il verdetto finale spetterà comunque a Consiglio e Parlamento, che dovranno decidere entro giugno. E in ogni caso, spiega il commissario all'immigrazione Avramopoulos, non ci sarà un arrivo incontrollato di cittadini turchi nell'Unione Europea e sarà comunque necessario il passaporto biometrico. Let me be clear. Visa liberalization does not mean uncontrolled entry into the European Union. Only people who have biometric passports can enter. In arrivo oggi anche la proposta di modifica del regolamento di Dublino, che non sarà radicale. Resta la responsabilità primaria del paese di primo approdo, ma viene introdotto, quando i flussi migratori sono particolarmente rilevanti, un meccanismo automatico in base al quale i richiedenti asilo dovranno essere redistribuiti negli altri paesi, con sanzioni pecuniarie per chi si rifiuta di fare la propria parte. Via libera anche la proroga di 6 mesi dei controlli ripristinati da alcuni paesi, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, controlli che erano stati reintrodotti a novembre a causa del mancato rispetto da parte della Grecia dei criteri di sicurezza al confine esterno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ed ora parliamo delle banconote da 500 euro. Un lento ma inesorabile oblio. Questo è il futuro che il governatore della BCE, Mario Draghi, avrebbe riservato ormai da tempo alla banconota da 500 euro. Uno strumento per attività illegali, l'ha definita il numero uno dell'Eurotower. E in effetti dati e analisi dicono che la banconota violetta predilige le mani della mafia e dei trafficanti, di armi come di sostanze stupefacenti. Il valore è attorno ai 300 miliardi, poco meno del 30% di quanto circola in Europa, ma appena il 3% dei pagamenti avviene con banconote di questo taglio. Il Consiglio non monetario di oggi potrebbe decretarne la fine. Potrebbe perché i tedeschi si oppongono, e si oppongono perché avvertono questa decisione come una limitazione della propria libertà. A supporto della propria posizione, i tedeschi sostengono che smettere di stampare i biglietti da 500 e dunque stamparne da 50, 100 e 200 per un pari valore potrebbe arrivare a costare anche 500 milioni. Ennesima frizione tra la Germania e Super Mario, che si somma alla ormai indigesta per Berlino politica monetaria portata avanti dalla BCE. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriveranno giovedì le conclusioni dell'Avvocatura Generale della Corte Europea sulle misure anti-xylella, in particolare quelle relative alle eradicazioni delle piante. Lo ha annunciato l'Avvocato Generale Yves Bot al termine della prima udienza tenutasi oggi a Lussemburgo. Il TAR del Lazio si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea in seguito alle cause che vedono fronteggiarsi alcuni proprietari di uliveti pugliesi e dall'altro le istituzioni italiane. Al centro della contesa c'è l'ordine di rimozione immediata non soltanto degli ulivi colpiti da xylella, ma anche delle piante ospiti in un raggio di 100 metri dagli esemplari infetti. Era l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.